Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Quando il grande tendone del circo arrivava in paese, con le sue carovane di maghi, acrobati, giocolieri, era una festa che durava giorni. Adesso lo spettacolo itinerante per eccellenza ha perso un po' di affezionati, ma per molti continua a conservare intatto il suo fascino. I bambini, ma non solo, rimangono a bocca aperta di fronte al coraggio dei domatori di leoni, alla precisione dei lanciatori di coltelli, all'arte dell'equilibrio dei contorsionisti, capaci di mantenere una posizione che sfida evidentemente le leggi della fisica. Ma forse, sopra ogni cosa, il personaggio che più si associa al grande carrozzone del circo è il clown. Quella figura che incarna alla perfezione gioia e dolore, malinconia e felicità. In poche parole, la vita. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa, io li perdono. Un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo e un po' perché hanno pagato il biglietto. Se le mie buffonate servono ad alleviare le loro pene, rendi pure questa mia faccia ancora più ridicola, ma aiutami a portarla in giro con disinvoltura. C'è tanta gente che si diverte a far piangere l'umanità. Noi dobbiamo soffrire per divertirla. Manda se puoi qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri. Era la preghiera del clown di Totò, tratta da Il più comico spettacolo del mondo. L'attore è napoletano, in grado di far ridere anche con un abito elegante, proprio per la sua capacità di usare in modo completo la sua fisicità. È certamente uno dei più grandi clown contemporanei. Il clown, infatti, non è soltanto quello con la faccia dipinta, il naso rosso, gli abiti larghi e le scarpe grandi. Esiste un nuovo clown che tutti questi elementi li ha interiorizzati. Uno di questi è l'americano Django Edwards, proveniente dall'atmosfera culturale del 68 e di Woodstock, che fin dall'inizio della sua carriera ha utilizzato la fisicità al servizio della metamorfosi, riuscendo a produrre sul palco un impatto potentissimo. Per me essere clown è un modo di vivere. Diventare clown è diventare il più grande attore che ci sia. I clown sono persone che possono allo stesso tempo fare il bene e il male, essere teneri o aspri, esprimere volgarità e sentimento. Devono poter danzare, cantare, essere acrobati, mimi, musicisti, maghi. Devono saper fare tutto. L'innocenza del clown è costruita sulla saggezza. Egli è puro, ma ciò che mostra non è innocente. Il clown è un grande comunicatore. È qualcuno che scorazza in giro per il globo liberamente, troppo liberamente, mostrando la tragedia che lo circonda e costruendoci intorno personaggi, mondi diversi. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo l'affascinante storia di una coppia di clown che ha fatto ridere molte generazioni. Si chiamano Stan Laurel e Oliver Hardy, ma da tutti noi italiani sono conosciuti semplicemente come Stanlio e Ollio. Stanlio e Ollio. Some people call me the space cowboy. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Il clown è una maschera comica dietro la quale si cela uno stile di vita che predica la totale libertà, l'indipendenza da qualsiasi cosa e da chiunque. Per essere clown, sostiene il grande Leo Bassi, bisogna non rispettare niente per rispettare tutto. La leggenda vuole che il primo clown fosse un ubriaco che, entrando in un circo, inciampò facendo ridere tutti. Da qui il naso rosso, che ricorda quello di chi ha bevuto, e gli abiti da clochard. E da qui anche la grande molla che scatena la risata, l'incidente, il fallimento, l'avere sbagliato dove all'uomo normale non viene concesso. Il clown è stupefatto dalla vita, non capisce, ma vuole capire. I suoi motori sono la fame e la solitudine. Federico Fellini rende omaggio allo struggimento di questo mondo poetico con il film I Clown. Signore e signori, vola per le osterie una dolorosa notizia. Il signor Augusto, detto Pagliaccio, si è dipartito, involato, deceduto, è morto. I suoi pochi amici e i suoi molti creditori piangono l'immatura scomparsa avvenuta a soli 200 anni d'età. Non si poteva dire bello, non si poteva dire intelligente, non si poteva dire niente su di lui, perché ogni più piccola osservazione replicava lanciando zampilli di saliva sulla faccia. Stanlio e Ollio sono due straordinari clown cinematografici e mettono in scena le gag più esilaranti secondo un solidissimo principio della comicità: la spartizione dei ruoli all'interno della coppia tra pasticcione e spalla. Per la verità, Stanlio e Ollio si alternano negli sketch, ma di volta in volta sono comunque riconoscibili le due maschere fondamentali, l'Augusto e il Bianco. Sono l'incidente e l'attitudine bizzarra che hanno fatto nascere l'Augusto, vale a dire il clown stupido che sbaglia, cade e deve fare in modo di risolvere il suo fallimento. Al suo opposto, ma sempre con lui, c'è il Bianco, che invece rappresenta la ragione, la perfezione, l'ordine. Il clown Augusto è sciocco ed esagerato, mette in difficoltà la sua spalla, vale a dire il clown Bianco, con il quale è in perenne tensione. L'Augusto è semplice, ingenuo, apparentemente stupido, ma soprattutto è questo che innesca la risata sempre imprevedibile. Il clown Bianco di solito è più raffinato, rigido, autorevole ed elegante. Il clown Bianco e l'Augusto sono la maestra e il bambino, la madre e il figlio monello, e rappresentano due atteggiamenti opposti dell'uomo, la spinta verso l'alto e la spinta verso il basso, che Federico Fellini racconta con queste parole. Quando dico il clown, penso all'Augusto. Le due figure sono infatti il clown Bianco e l'Augusto. Il primo è l'eleganza, la grazia, l'armonia, l'intelligenza, la lucidità, che si propongono moralisticamente come le situazioni ideali, le uniche, le divinità indiscutibili. Ecco quindi che appare subito l'aspetto negativo della faccenda, perché il clown Bianco in questo modo diventa la mamma, il papà, il maestro, l'artista, il bello, insomma quello che si deve fare. Allora l'Augusto, che subirebbe il fascino di queste perfezioni se non fossero ostentate con tanto rigore, si rivolta. Questa è dunque la lotta tra il culto superbo della ragione e l'istinto, la libertà dell'istinto. Nella coppia Stanlio e Ollio, il primo Smilzo e il secondo Cicciottello, è difficile stabilire chi dei due sia il clown Bianco e chi sia l'Augusto. Forse Ollio riesce a essere un po' più rigido, ma entrambi combinano guai come lo Zanni pasticcione della commedia dell'arte. Due menti senza un singolo pensiero. È così che con una battuta la nutrita schiera di fan che fa capo al gruppo Figli del Deserto li ha definiti. Il magro e il grasso, come vengono chiamati in molti paesi, non sono semplici comici. Sono la coppia comica per eccellenza, quella a cui anche i comici di parola più raffinati devono comunque qualcosa. I due sono riusciti nella difficile impresa di resistere al passaggio dal muto al sonoro, fino a entrare nella leggenda. In scena riescono a completarsi, a incastrarsi alla perfezione come due pezzi di un puzzle. Eppure le loro vite erano così lontane prima di questo magico incontro del destino. Stan Laurel, lo Smilzo, nome d'arte di Arthur Stanley Jefferson, nasce nel Lancashire, Gran Bretagna, nel 1890, pochi mesi dopo che a Londra nasce Charlie Chaplin. Suo padre è autore, produttore, attore e direttore di teatro. buffo, con un corpo da pupazzo, un grosso ricciolo e capelli rossi sempre dritti in testa, è il primo ricordo di Stan. That's right. Quando penso a me, da bambino mi viene in mente papà che girava per casa e inciampava. Ah, non faceva apposta, era vero. Non c'era finzione, per questo era un vero clown. E poi cantava sempre. La mamma, Madge Metcalf, è anche lei un'attrice, più celebre ancora del marito e amica di George Arliss, che all'epoca era una vera e propria star delle scene londinesi. Stan ha tre fratelli, due maschi e una femmina, e tutti e quattro vengono indirizzati dai genitori verso studi rigorosi. Ma Stan, sebbene i suoi genitori sognino per lui un futuro diverso, non vuole entrare al college, vuole seguire le loro orme. Nella sua vita di ragazzo ha un'unica certezza. Avevo deciso che avrei fatto il comico e così mi sono presentato dal primo impresario e gli ho detto: io sono divertente. Ho cominciato a ottenere particine e nel 1908 ero già nella compagnia di pantomima di Fred Camo. È stata la mia fortuna. Ah, non c'era nessuno come lui. Il suo nome era il box office. Quando Stan entra nella compagnia, si sta rappresentando Mumming Birds a Manchester e il capocomico è niente meno che un giovanissimo Charlie Chaplin. Lo spettacolo, nel quale tutti gli attori sanno fare tutti i ruoli e possono improvvisare a piacimento, è considerato uno dei migliori atti unici di tutti i tempi. Per legge la durata del dialogo non può superare i 20 minuti e gran parte dell'impegno è rivolto alla parte mimica e visiva. In questo Stanlio è davvero bravissimo. Riesce a isolare i momenti più meccanici della gestualità per riprodurli in modo ridicolo e scatena ogni replica l'entusiasmo del pubblico. E grazie a questa esperienza, circondato da un folto numero di talenti che si preparano per un futuro nel cinema, che impara quanto sia importante la naturalezza dei movimenti, che può far ridere molto di più di qualsiasi espressione linguistica o momento musicale comico. La compagnia riscuote enorme successo in Inghilterra e nel 1910 si prepara a sbarcare negli Stati Uniti. Voglio scoprire l'America! Se scoprirò in America la Marilyn Monroe, signori miei, contateci, io qui ve la porterò. Saliti sulla panca, muovendo un poco l'anca, gli dissero di sì. Sulla nave da trasporto bestiame che la sta conducendo in America, la troupe di Mumming Birds sorride mentre dal ponte inizia a intravedere le coste che si avvicinano. Charlie Chaplin, il capocomico, come un novello Colombo, vuole conquistare il nuovo mondo con la sua commedia. Ma lì le abitudini sono molto diverse rispetto a quelle inglesi. Ad accorgersene è per primo Stan Laurel, che come al solito, arrivato in hotel a New York, lascia le scarpe fuori dalla porta sperando di trovarle pulite il mattino seguente. Le mie scarpe non c'erano più. Mi sono precipitato come una furia dal portiere, ma lui non ne sapeva nulla. Le mie scarpe erano state rubate e io ero povero e non potevo certo comprarne delle altre. Così mi sono presentato a teatro con le mie pantofole su cui era scritto «Buonanotte». Dovevamo proprio essere dei tipi divertenti, noi inglesi dell'epoca, con il nostro stile di vita, il nostro modo di vestirci e di parlare. Il bilancio dell'esperienza americana della compagnia è piuttosto negativo. Gli attori sono davvero mal pagati e alcuni, tra cui Stanlio, sono costretti a lavorare il doppio, anche da soli, per cercare di sbarcare il lunario. Ma le cose si mettono sempre peggio e Stan riesce appena a racimolare i soldi per tornarsene in Inghilterra. Ma intanto in America c'è un altro talento, la futura svolta del suo destino, che sta muovendo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Ollio, il corpulento, nome completo Oliver Norvell Hardy, nasce ad Harlem, Georgia, nel 1892. Suo padre è un avvocato, ma muore troppo presto per riuscire ad aiutare la numerosa famiglia composta da tre maschi e due femmine. Sua madre, però, donna molto forte ed energica, manda avanti la casa grazie al suo lavoro di direttrice di un albergo signorile. Quando vivevo in Georgia non facevo cose particolarmente entusiasmanti, ma avevo l'abitudine di guardare la gente dalla finestra. Mi è sempre piaciuto osservare le persone e scoprire le cose strane che avevano. Nella famiglia Hardy, a differenza dei Laurel, non c'è nessuno che viene dal mondo dello spettacolo. Oliver è l'unico a voler tentare quella strada, inizialmente attraverso il canto. Si unisce a un gruppo di musicanti girovaghi che si esibiscono lungo il Mississippi. Ma il sogno dura poco. Accademia militare, come ogni giovane di buona famiglia del sud, e poi facoltà di giurisprudenza, per seguire le orme del padre e sobbarcarsi parte delle difficoltà economiche. Fino all'illuminazione, quando decide di aprire un locale, uno dei primi, per la proiezione dei film. Guardando alcune di quelle commedie, mi convinsi che anch'io avrei potuto recitare, bene o male, come quegli attori. Così, di punto in bianco, abbandonai quel locale e mi trasferì a Jacksonville, in Florida. Lì ho cominciato a lavorare per la Lubin cinematografica. Guadagnavo $5 al giorno e avevo 3 giorni di lavoro garantito alla settimana. Ho sempre recitato parti comiche da cattivo, forse per via della mia mole. Mi facevano sempre fare il birbante rozzo. Oliver esegue, ma ha in mente altro. Quello che davvero gli appartiene è la figura del pasticcione, a tratti prepotente, ma sempre di buone maniere. Proprio quel personaggio che metterà in scena innumerevoli volte con il suo futuro socio. In Florida, comunque, resta 3 anni e si guadagna il soprannome con cui gli amici continueranno a chiamarlo per sempre. Babe. Ci facevamo tagliare i capelli da un barbiere italiano che aveva un negozio davanti agli studios. Era molto effeminato e probabilmente gli piacevo. Così ogni volta che finiva di radermi mi passava il talco sulle guance, accarezzandole mentre diceva «Nice baby, nice baby». Il nome Babe da lì mi è rimasto addosso per tutta la vita. All'inizio del Novecento gli attori sono disposti a fare qualsiasi cosa pur di lavorare. Per esempio, devono accettare di diventare girovaghi. Stan Laurel, ritornato in Inghilterra dopo la delusione della prima tournée negli Stati Uniti, ci prova con una seconda tournée. Questa volta il salario è più alto e la compagnia si avvale del nome ormai celebre di Charlie Chaplin. Pieno di stranezze, vendicativo, scostante, egocentrico, il capocomico è comunque il più grande mito per Stan ed è a lui che vorrebbe assomigliare. Il successo è clamoroso, al punto che Chaplin viene ingaggiato da Mack Sennett, produttore noto con il nome di Re della Commedia, per intraprendere una carriera nella sempre più ricca industria cinematografica. Senza di lui però la compagnia si sfascia. Stan prende coraggio e prova a cavarsela da solo. È la stessa cosa che sta facendo anche Oliver Hardy, trasferitosi dalla Florida a New York per fare il cantante di cabaret. Entrambi sanno che la loro strada è il palcoscenico, anche se ancora non hanno trovato la giusta direzione. Ma tra poco il destino li farà incontrare e sarà l'inizio della leggenda. The cotton is high. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo intorno agli anni 20, a zonzo per l'America, come i vagabondi e gli attori, che per sbarcare il lunario devono continuamente spostarsi. Stan Laurel e Oliver Hardy, che tra poco diventeranno il celeberrimo duo Stanlio e Ollio, non si sono ancora incontrati e tentano la fortuna su palcoscenici diversi. Mentre Oliver, dotato di grande voce blues, si esibisce nei cabaret come cantante, Stan è reduce da una tournée così trionfante che il capocomico, Charlie Chaplin, è stato notato da un produttore che lo vuole lanciare nel mondo del cinema. Lo invidiavamo molto, per me era il massimo. Con gli altri del gruppo facevamo le imitazioni di Charlot, ma nessuno era davvero bravo quanto lui. Nonostante il suo carattere scostante, era un mito per tutti noi. Chaplin inizia a sfornare una serie di capolavori del cinema muto come Il Monello, Giorno di Paga, Il Pellegrino, A Woman of Paris, La Febbre dell'Oro, determinando una rivoluzione nell'ambito del comico. Giacca stretta, pantaloni e scarpe più grandi della sua misura come nell'antica tradizione clown, bombetta nera, baffetti e bastone da passeggio. Impossibile dimenticare la malinconia e il disincanto di Charlot, che con la sua andatura ondeggiante è diventato manifesto dell'alienazione umana nell'era del progresso. Ed è entrato a pieno titolo nell'Olimpo delle icone del Novecento. Alla raffinatezza di Chaplin si affianca l'irruenza di Buster Keaton, il vero re della slapstick comedy, un tipo di comicità basato sul linguaggio del corpo che vede la sua sintesi perfetta nella scivolata sulla buccia di banana. Una gag che garantisce la risata anche ai giorni nostri. Lo slapstick discende dalla commedia dell'arte italiana, nella quale gli attori facevano largo uso della loro fisicità, e Keaton l'ha reso popolare negli anni 20, diventando l'altro oggetto di ammirazione con Chaplin di Stan Laurel e Oliver Hardy. Io e Stan ci divertivamo a guardare gli sketch di Charlot, che lui conosceva bene perché ci aveva lavorato a stretto contatto per anni, e di Buster Keaton, perché a lui bastava un'espressione per far ridere, un piede messo male, un braccio che non seguiva l'altro, insomma qualsiasi gesto meccanico. Per noi Chaplin e Keaton sono sempre stati due miti, e di certo nei loro confronti provavamo anche una forma di invidia e di soggezione. Eppure Stanlio e Ollio sono, a distanza di 80 anni, riconosciuti come alcuni tra i comici più divertenti di tutti i tempi. A metterli sulla stessa strada, dopo anni di gavetta fatta separatamente in giro per i locali di tutta l'America, è stato il destino, che nel 1921 li ha fatti trovare faccia a faccia per girare Cane Fortunato. Per ora è solo un incontro casuale, che non sembra prevedere per loro un futuro comune, e bisognerà aspettare ancora 6 anni perché i due diventino una coppia ufficiale. Tuttavia, Stanlio, intuitivo come sempre, capisce immediatamente che quell'uomo dalla faccia rotonda e lo sguardo vivissimo ha una marcia in più. L'ho capito fin dalla prima volta che ci siamo visti sul set di Cane Fortunato, che lui era più divertente di chiunque altro avessi mai conosciuto prima. E posso dire che anche adesso, rivedendo le nostre gag, mi sembra ancora quel ragazzone che mi ha sempre fatto ridere come un matto. Come si chiama e non ne so neppure il nome. So che fa du du du du du du du du du du. Il certo è che se va a scordarti tutti i guai, tu pure se ti vuoi distrarti afflitto stai. Canta quel motivetto che seduce e incanta, e che fa du du du du du du du du du du. Laurel, per la verità, non è il cognome di Stan. Si chiama Jefferson, ma è così superstizioso da pensare che 13 lettere portino sfortuna. A convincerlo definitivamente a cambiarlo è May Dahlberg, sua compagna di vita e di lavoro, con la quale forma un duo comico. May è un'attrice molto in voga, star dei musical e del vaudeville. Entrambi sono generi teatrali che si avvicinano al café chantant e alla rivista, vale a dire dei grandi varietà nei quali si alternano mimi, ballerini, cantanti, musicisti e così via. La passione per le donne è una cosa che Stanlio e Ollio scopriranno presto di avere in comune. Entrambi si sposeranno molte volte e si faranno portavoce con i loro film della condizione femminile già evoluta in America rispetto al resto del mondo. Non mancano per esempio le gag nelle quali i due prendono molte botte dalle rispettive compagne, molto forti e indipendenti. Se questo da un lato non ha certo una pretesa sociologica, dall'altro serve a spiegare un'emancipazione che in paesi come l'Italia non è neanche lontanamente immaginabile. Salve bambole, ho bisogno di voi. Cosa desidera? Vuol parlare con qualcuno forse? Sì, e se no perché sarei venuta in questa topaia? A levare le ragnatele? Cerco il signor Hardy e voglio essere ricevuta subito, chiaro? Va bene. Ehi, cosa avete da guardare voi? Forza, lavorate! Sbrigati! Torno subito. Noi non abbiamo mai avuto la pretesa di fare un cinema impegnato come poteva fare Chaplin. Noi volevamo semplicemente far ridere, divertire grandi e bambini. Di certo però, anche senza che ce ne fossimo accorti, stavamo con le nostre comiche raccontando una realtà in cui le donne guidavano le nostre vite in un misto di dolcezza e durezza. È il 1926 e Stan Laurel e Oliver Hardy, dopo aver recitato insieme in Cane Fortunato, sono diventati amici. Ognuno ha continuato il suo percorso singolarmente. Stan come comico e gagman, Oliver racimolando particine qua e là. Ma adesso il destino è pronto a farli rincontrare. Laurel, la futura mente creativa della coppia, ha iniziato a fare anche il regista e per il suo Graham Young vuole dirigere proprio il suo tondo e buffo Oliver. Ma Oliver, come in una divertente gag, sfortunatamente si ustiona un braccio mentre sta cucinando un cosciotto d'agnello e non può recitare. Il produttore Al Roach decide così di sostituirlo proprio con Stan, che così non può stare dietro la macchina da presa. Uno scambio che inciderà incredibilmente sulle loro strade. Ollio non perde comunque occasione per essere sul set a dare indicazioni a Stan su come si deve muovere, visto che la parte doveva essere sua. Lui sa come fare. Ed ecco la sorpresa. Vedere i due insieme che muovono i primi passi sulla scena è la vera scoperta che il regista McCary racconta con queste parole. Un giorno stavamo girando una scena a 10 metri da terra. Stan era nervoso, diceva di non sentirsi sicuro. Babe cercava di rassicurarlo, ma alla vista di Stan, sempre più terrorizzato, si spazientì e saltò giù per dimostrargli che non c'era nulla da temere. Ma dato il suo peso di 130 kg, il prevedibile risultato è stato il cedimento rovinoso della piattaforma e i presenti non riuscivano a smettere di ridere. Nasce così, spontaneamente, una tipica scenetta dei loro film, ripetuta tantissime volte ma sempre esilarante per il contrasto tra il faccione serio e irritato di Hardy e la sua goffa caduta. Ad accorgersi della potenza scenica di Stanley e Ollio in coppia è il produttore Al Roach, a capo di un impero della comicità che ai tempi veniva chiamato Lot of Fun. Roach scrittura Stan come regista, mentre Oliver si unisce agli studios dopo una lunga esperienza da solo. Ma è fin da subito evidente che i due debbano lavorare insieme. Roach ne parla con uno dei suoi registi storici, Leo McCary, e insieme decidono che è giunto il momento di scrivergli copioni ad hoc, in modo da unire una volta per tutte i loro destini. Quando ce l'hanno proposto agli studios abbiamo accettato subito, perché entrambi avevamo capito che presi singolarmente eravamo bravi, certo, ma in coppia avremmo potuto davvero sfondare. Ed è così, prima casualmente, poi con una scelta meditata, che nasce la coppia Stanlio e Ollio, fondata su un principio molto solido della comicità, il conflitto, che nel loro caso, prima ancora che caratteriale, è evidentemente fisico. Stan, viso allungato e corporatura minuta, ha la stazza più lontana al mondo da quella di Ollio, faccia paffuta, guance rosse e molti, molti chili di troppo, che a un certo punto gli conviene anche aumentare ulteriormente, perché i produttori, consapevoli del valore della sua fisicità in scena, gli propongono di alzargli la paga a qualche dollaro al giorno ogni libra acquistata. Ollio arriva a pesare anche 150 kg, mentre Stan si aggira sempre sulla metà. Inoltre è molto più alto, una differenza accentuata dalle scarpe senza tacco che Stanlio usa per garantirsi un'andatura sbilenca. Possono sembrare soltanto caratteristiche che li rendono differenti, invece sono la base da cui i lungimiranti produttori partono per fargli fare una sfavillante carriera. Don't mean a thing if you ain't got that swing. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo negli anni 30 e negli studios americani di Al Roach, produttore e re della risata ed eterno rivale di quel Mack Sennett che si è accaparrato Charlie Chaplin, si è appena formata una coppia destinata a entrare nella leggenda, Stanlio e Ollio. Roach, con il regista Leo McCary, intuisce che insieme i due sarebbero stati una bomba e inizia a far preparare copioni nei quali emergano i due personaggi cuciti esattamente addosso a loro e che ancora oggi conosciamo. Entrambi ingenui, presi in giro da chiunque, di certo non intelligenti, ma con una grande voglia di far parte del mondo esterno, sia lavorando, sia sposandosi, sia continuando a coltivare questa amicizia tra opposti sempre in bilico. Naturalmente gli riesce tutto male. Guai con le mogli, sbagli sul lavoro, incidenti durante quella che dovrebbe essere una tranquilla gita fuori porta. Io ho sempre scritto gag, venivo da una grande esperienza e alla Roach ho deciso di mettermi in più fasi produttive. Per questo la mia paga era sempre più alta di quella di Stan, perché lui aveva deciso di fare solo l'attore e delegare a me molte scelte. Stanlio e Ollio sono buoni e disincantati. Sono come due bambini cresciuti. La grande intuizione è stata quella di costruire due maschere, due clown nel senso non tradizionale del termine, che come nella commedia dell'arte italiana avessero poche caratteristiche, semplici e sempre ripetute, grazie alla quale potessero scattare dinamiche di coppia. Stanlio è distratto e lamentoso, con una tendenza a disturbare e a non saper stare al suo posto. Ollio invece, che ostenta un'eleganza formale, è in realtà goffo. E la caduta, in senso lato, è per lui sempre dietro l'angolo. Siedi. Scriviamo il testamento del mio discorso. Amici, cittadini elettori e simpatizzanti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo mettilo fra parentesi. Le gag fisiche, le botte, le porte in faccia sono grandi classici dei loro sketch, ma che divertono fin da subito e continuano a farlo. Stanlio con il papillon e Ollio con la cravatta. Lo sguardo in camera di Ollio con il suo riportino a frangetta sul viso paffuto che cerca la comprensione del pubblico quando il suo socio ne combina una delle sue. Sono immagini diventate famose in tutto il mondo. Quando nel 1930, dopo alcuni tentativi misti, i due passano definitivamente al sonoro, c'è il problema ovunque del doppiaggio. Addirittura all'inizio si prova a girare ogni scena in 5 o 6 lingue, facendo leggere ai due attori un gobbo scritto a mano. È da qui, dall'accento inglese inevitabilmente mantenuto per pronunciare le battute in italiano, che è nata l'idea del doppiaggio con sporcature e accenti sbagliati. Parole come stupido e arrivederci fanno subito pensare alle comiche della coppia strampalata. E in quanto ai doppiatori, dal 1939 in Italia ce ne sono due d'eccezione: Mauro Zambuto per Laurel e Alberto Sordi per Hardy. Mi sono visto doppiato in italiano e devo dire che è una lingua magica. Capivo cosa stavo dicendo solo perché l'avevo recitato in inglese, ma l'italiano ha un suono così speciale che sembrava rendermi ancora più divertente. Io non so nuotare, non posso... Smetti di piagnucolare, questa è la vostra ultima occasione. Se non ci dite dov'è l'anello, vi buttiamo in acqua. Ma io non so dov'è l'anello, lo sa lui. Gentile signore, l'aveva lui l'anello. Forse questo te rinfrescherà la memoria. No! Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sunlight sets the daytime. I Monelli, andiamo a lavorare, il circo è fallito, il compagno B, Fra Diavolo, i figli del deserto, allegri eroi, i fanciulli del West, noi siamo le colonne. Prima con Al Roce, poi con la Fox, Stanlio e Ollio girano in tutto ben 106 film, una media di 7-8 all'anno. Ollio si mette interamente nelle mani di Stan, perché lui, nonostante le distrazioni dovute ai numerosi problemi matrimoniali, la vera mente della coppia. I due sono diversissimi sulla scena e nella vita. Stanlio ama la fotografia, Ollio il golf. Si frequentano molto anche fuori dal set, ma quando decidono per la prima volta di fare un viaggio insieme, si scatenano giornalisti e fotografi, suscitando intorno a loro veri e propri fenomeni di divismo. D'altra parte, gli estimatori della coppia sono ovunque e alcuni sono anche illustri. Due su tutti? Papa Pio XII e Benito Mussolini. Non credevamo ai nostri occhi. Già sulla nave che ci portava in Europa erano saliti per intervistarci. Ci trattavano come star. Dopo quasi 30 anni di carriera sfavillante, arriva il momento di fermarsi. Il motivo è triste e doloroso. Nell'agosto del 57, Hardy viene colpito prima da infarto e poi da un ictus che lo portano a perdere ben 70 kg, rendendolo irriconoscibile. Poco prima di morire, si paralizza da un lato, il lato opposto a quello in cui rimarrà paralizzato Laurel per un curioso scherzo del destino. Quando Ollio muore, Stanlio non va al funerale. I maligni deducono un forte astio tra i due, ma Stanlio, costretto in realtà dal medico a stare in casa, dichiara semplicemente: «Babe avrebbe capito». Per me è stato come perdere un fratello. Passavamo insieme le nostre giornate e il nostro tempo libero. Ho subito deciso che, nonostante l'amore per il mio mestiere, senza di lui non avrei mai più recitato. Nel 61 Stan riceve l'Oscar alla carriera e lo dedica all'amico scomparso. Dopo 4 anni si spegne anche lui, lasciando un vuoto nel mondo del cinema, ma tanti film che hanno donato a Stanlio e Ollio l'immortalità. Quando nel 1984, durante la cerimonia degli Oscar, vengono proiettate le foto di Stanlio e Ollio abbracciati al loro pigmalione Al Roach, un Robert De Niro visibilmente commosso sorride e dice: «E grazie a loro se oggi siamo qui». La nostra popolarità è durata tanto tempo. Si sarebbe anche potuto pensare che la gente ci avesse scordato, ma non è stato così. Forse il pubblico amava noi e le nostre comiche perché ci avevamo messo dentro tanto amore.